Ta. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, in parte c'è un tema che tra virgolette si trascina da ieri, ossia quanto siamo cresciuti nel 2016. C'è il dato ufficiale rivisto per i giorni corretti del calendario, è più 1%, quindi leggermente meglio rispetto allo 0,9 stimato. Ora conosco già l'obiezione, non si va avanti con i decimali. In questo caso però c'è un elemento di fondo, perché proprio a fronte delle richieste che sono arrivate da Bruxelles di correggere il nostro deficit di uno 0,2%, sappiamo che il deficit non è importante come valore assoluto ma come rapporto sul PIL. Ora, crescendo leggermente il denominatore, il PIL, questo dovrebbe voler dire che in realtà la correzione non sarà più dello 0,2 ma probabilmente di uno 0,1%. Tradotto, invece che 3 miliardi e 4, non dico proprio la metà, ma almeno, stando alle stime, ne parleremo, un miliardo in meno di correzione sui conti. Come è andato il quarto trimestre? Il quarto trimestre invece è già andato leggermente in rallentamento, mi riferisco al 2016, più 0,2 contro più 0,3 del terzo trimestre 2016. Per quello che riguarda l'anno in corso, la variazione acquisita, quindi il dato già acquisito, è di un più 0,3%. Partiamo subito da qua con i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS. E ricordo oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. Parleremo, dicevo, del dato sul PIL, ma soprattutto per quello che riguarda le richieste di Bruxelles a questo punto. Non è che il paese possa notare una differenza tra 0,9 o 1%, fermo restando che è meglio l'1%, qui siamo a catalano, rispetto allo 0,9, e resta il giudizio di ieri di un'Italia che cresce rispetto alla media europea della metà, almeno la metà della media europea, l'1,7% di crescita, e quindi il fatto che il nostro paese abbia una crescita modesta, continua ma modesta, resta. Per quello che riguarda invece il rapporto con Bruxelles, le richieste di Bruxelles, la notizia c'è, come appunto racconta Salvatore Padura. Per il resto ci occuperemo sia dell'investimento Whirlpool in Italia, che fa il paio invece con le minacce che potrebbero arrivare dagli Stati Uniti sul fronte dazi, ossia i dazi sulle importazioni di motocicli prodotti in Europa, come ritorsione per lo stop dell'Europa alla carne statunitense trattata con ormoni. Io aggiungo meno male, nel senso che ci manca solo questo. E invece parleremo anche di un'altra vicenda, la Toshiba, che ha chiesto di posticipare la pubblicazione dei risultati societari di un mese. La società dovrebbe annunciare una perdita record pari a 5 miliardi e 700 milioni di euro da aprile a dicembre, e tra l'altro ci sono vari elementi, non c'è solo la parte, diciamo, per cui la Toshiba è più conosciuta. Altro tema di cui ci occuperemo sempre in tema di economia reale è il mondo dell'auto, perché oggi PSA, Peugeot Citroën DS, ha detto di riflettere sulla possibilità di acquistare Opel, filiale europea di General Motors. Qualcuno di voi ricorderà che Opel era già stato un dossier aperto e poi in realtà chiuso per l'opposizione anche tedesca dalla Fiat Chrysler nel 2012. Fu Sergio Marchionne a indicare l'Opel come possibile acquisizione da fare per il gruppo Fiat Chrysler. Comunque l'interessamento della francese Peugeot Citroën PSA, nel pacchetto rientrerebbe anche Vauxhall, la filiale britannica del colosso americano. Addirittura il Wall Street Journal ipotizza che un accordo potrebbe essere annunciato a breve. Ricordo che Opel è controllata dall'americana General Motors. E poi chiuderemo sull'Ilva. Oggi la giornata è molto densa perché il GIP di Milano, Maria Vicidomini, ha respinto le richieste di patteggiamento in quanto incongrue avanzate da Adriano, Fabio e Nicola Riva nell'ambito del procedimento al centro del crack del gruppo Riva e la responsabilità sull'Ilva di Taranto. Il GUP ha ritenuto troppo basse le pene concordate con la procura, e cioè 2 anni e mezzo per Adriano, tra i 4 e 5 anni per Fabio e circa 2 anni per Nicola Riva. Il via libera al patteggiamento è legato allo sblocco di oltre 1.300.000.000 di euro depositati in Svizzera e da destinare al risanamento dello stabilimento. E quindi c'è uno stallo, almeno su questo c'è uno stallo. Per quello che riguarda invece la borsa, più 0,70% Milano, più 0,1 Parigi, invariata Francoforte, meno 0,17 Londra, invariato il Dow Jones, euro su dollaro quota 1,05, di nuovo forti i bancari, quelli che avevano perso molto venerdì per i conti, Banco BPM più 4,90, Ubibanca più 3,80, Unipol più 3,30, Biper più 3,30%, molto bene anche Fiat Chrysler più 3,80, di nuovo in rialzo Generali più 1,90, Mediobanca più 2,5%, Intesa San Paolo più 1,5%. Tra chi perde, Saipem meno 2,30, Telecom meno 1,40, Snam meno 0,90, Mediaset meno 0,80%. Infine, come sempre, il numero per SMS e WhatsApp è 349-238-6666. Allora i 100 secondi sul dato corretto per giorni lavorativi dell'Istat, che ci dice che l'anno scorso abbiamo fatto più 1%. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Anche l'Istat ha confermato oggi che per l'Italia nel 2016 la crescita del PIL è stata dello 0,9%, un decimale in più rispetto alle previsioni del governo. In effetti il dato di più 0,9% è lo stesso indicato ieri nelle stime della Commissione europea, dalle quali emergono tutte le criticità attuali del nostro paese, dal debito pubblico alla disoccupazione, senza dire che la nostra economia anche nel 2017 è destinata a crescere meno di tutti gli altri paesi, con il PIL che segnerà solo un progresso dello 0,9%. Ma stiamo sull'Istat, si tratta di una stima preliminare, i risultati definitivi del 2016 arriveranno il 1 marzo e, visto anche l'ottimo andamento dell'indice della produzione industriale nella parte finale dell'anno, non è esclusa una revisione al rialzo delle stime, che potrebbero portare all'1% l'incremento del PIL nel 2016. Naturalmente siamo sempre a parlare di questi 0, eppure in questo caso è uno 0, molto atteso, perché il PIL a più 1% potrebbe avere un risvolto molto positivo sulla manovrina che l'Italia deve mettere in campo entro aprile per correggere i conti pubblici, come ci ha chiesto Bruxelles, per evitare la procedura di infrazione per deficit eccessivo. Secondo alcuni calcoli, un PIL 2016 meglio delle attese potrebbe ridurre l'importo della manovra dai 3,4 miliardi previsti a 2,5-2,6 miliardi, consentendo al governo di limitare il più possibile di agire sul fronte delle entrate, evitando in particolare di aumentare le accise su benzina e tabacchi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Parleremo, qui me lo chiedono, anche di Janet Yellen, il numero uno della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, perché oggi ha avuto un incontro, un'audizione al Senato americano, e ricorderete che in campagna elettorale Donald Trump aveva più volte criticato l'atteggiamento della Federal Reserve. Lei ha detto, poi ne parleremo in maniera più approfondita, comunque resterò in carica fino alla fine del mio mandato. Risposta molto secca su questo. Volete sapere quanto ha perso Toshiba? È arrivata a perdere oltre il 9% questa mattina. Nikkei ha chiuso male, meno 1,13% per un po' di tempo e ancora qualche decina di minuti e vi arriveremo. Mentre, visto che parlavamo di mondo dell'auto per il fatto che Peugeot Citroën ha confermato che sta trattando l'acquisto di Opel da General Motors, il titolo corre in borsa, ma il titolo Peugeot un più è arrivato a fare un più 3,5%. Poi sarà interessante capire perché adesso sì, ma adesso la Germania dice sì ai francesi e disse nel 2012 no al Fiat Chrysler, fermo restando che la proprietà è americana, è General Motors. Faccio notare che i conti di Rolls Royce oggi invece diffusi vanno male, perdite record, le peggiori perdite di sempre. Uno dice chi se ne frega da Rolls Royce, ho capito, non è certo l'obiettivo di investimento di molti di voi in ascolto. Comunque ha perso 5 miliardi e 400 milioni di euro. E questo come conseguenza dell'accantonamento da parte del gruppo britannico, che ricordo però è controllato dai tedeschi, di 4 miliardi e 400 milioni in investimenti finanziari ritirati per far fronte all'oscillazione monetaria legata in particolar modo ai timori sulla transizione verso la Brexit. E poi invece 670 milioni che ha dovuto pagare per l'accusa di corruzione in Brasile. Sale l'inflazione in Gran Bretagna all'1,8%, al picco dal giugno del 2014, anche qui pesano le oscillazioni della sterlina, ricorderete, innescate dalle incertezze sul percorso adesso della Brexit. Restando in Europa, Berlino, Roma e Parigi vogliono proteggere le imprese europee che operano nell'high tech dal cosiddetto shopping cinese. Ci sarebbe una dichiarazione dei tre governi alla Commissione europea. L'obiettivo è che la Germania e altri paesi europei abbiano più possibilità di verificare e, se necessario, impedire acquisizioni in casi isolati, per evitare acquisizioni sleali che avvengono con l'aiuto di risorse statali cinesi o per fare incette in modo specifico di importanti tecnologie dalla Germania. E restiamo in Germania perché da un lato c'è un netto calo della fiducia degli investitori in Germania, l'indice ZEV è andato molto male, pesa l'incertezza politica per il dopo Brexit e la politica economica futura degli Stati Uniti, nonché anche l'elemento elettorale presente in Germania, mentre l'inflazione va all'1,9% a livello più alto dal 2013 e il PIL cresce anche in Germania come in Italia nel quarto trimestre meno del previsto, più 0,4%. Oggi è una giornata ricca di notizie che riguardano la cosiddetta economia reale, gruppi e quant'altro. Allora, ce n'è come anticipavo, non c'è solo la minaccia di dazi nei confronti dei motocicli europei come ritorsione per il blocco della carne con ormoni proveniente dagli Stati Uniti. C'è una notizia che riguarda invece un gruppo americano importantissimo che conferma i piani di investimento in Italia. Si tratta della Whirlpool, lo ha detto oggi il presidente Whirlpool Emea Esther Berroz Galindo, inaugurando un nuovo stabilimento che produce piani di cottura e lo ha fatto in provincia di Ancona, Melano di Fabriano. Ricordate, molti di voi sanno che la provincia di Ancona, Fabriano, è un distretto importantissimo per non solo il bianco ma anche per le cappe e per tutto ciò che rappresenta il mondo della cucina. E allora ha detto infatti il numero uno, questo è la conferma di un percorso che Whirlpool ha intrapreso con le persone di questo territorio, il Fabrianese e le Marche, ricordando che sono stati colpiti troppo duramente in questo periodo. Ha confermato la centralità dell'Italia e delle Marche nei progetti di Whirlpool a livello mondiale e nel caso specifico per l'area europea, medio orientale e africana. Questo anche come conseguenza degli accordi sottoscritti con il governo italiano nel 2015 a chiusura della vertenza, ricorderete, abbastanza difficile, seguita l'acquisizione delle Indesit Company. E allora la nostra Anna Marino ha raggiunto proprio Esther Berroz Galindo, presidente di Whirlpool, chiedendogli la parte che riguarda, diciamo, l'investimento e l'importanza dell'investimento nelle Marche, quindi in Italia. Un grande investimento per rendere competitiva e sostenibile, diciamo, l'assetto industriale in Italia. Abbiamo tratto vantaggio del fatto che comunque ci sarebbero stati degli investimenti per integrare la Indesit che abbiamo acquisito alla fine del 2014 e Whirlpool, e con questo abbiamo detto dobbiamo rendere l'Italia competitiva in un mercato internazionale, perché dobbiamo tenere in considerazione che noi il 70% della produzione che facciamo in Italia ad oggi viene esportata al resto dell'Europa, Medio Oriente, Africa e anche ad altre regioni a livello mondiale. State puntando sempre di più sul Made in Italy, questo dopo un momento di crisi, diciamo, rispetto all'Italia. Qual è stata la soluzione a questa crisi? Abbiamo una grossa presenza, il 75% di quello che investiamo in ricerca e sviluppo, diciamo 350 milioni negli ultimi 3 anni, il 75% di questo investimento viene fatto in Italia. Questo stabilimento di oggi quanto produrrà e soprattutto i numeri del rilancio? Noi abbiamo comunicato un investimento di oltre 500 milioni di euro in un arco temporale di 4 anni, che ha cominciato dopo la sigla del piano industriale con il MISE. Dopo 2 anni, diciamo, siamo quasi al 24esimo mese, per cui a metà abbiamo investito circa 220 milioni, per cui molto vicini alla metà dell'investimento che era stato, diciamo, concordato. Per cui i piani sono tutti in linea con quello che avevamo programmato e dobbiamo ancora continuare. Questo è un importante traguardo, ma non è la fine, perché c'è ancora tanto da fare. A marzo lo spostamento del quartier generale europeo di Whirlpool dalla sede di Ignis di Comerio a Pero, cintura urbana di Milano, ma soprattutto nei luoghi dell'Expo. Com'è questo spostamento? Come lo vedete? Questo spostamento ha due aspetti. Da una parte è un aspetto, diciamo, della qualità del lavoro, e un approccio molto futurista al modo in cui si lavora, soprattutto con un aspetto molto importante che è la collaborazione e anche lo smart working. Il secondo aspetto è un aspetto logistico, perché l'area Expo, diciamo, logisticamente è posizionata molto bene dal punto di vista dei trasporti, dal punto di vista della vicinanza comunque a Milano. E Milano abbiamo installato una capacità produttiva di 2.300.000 pezzi e già quest'anno, nel 2017, nell'anno della partenza, abbiamo pianificato di produrre 2.100.000 pezzi. Questa volta dagli altri paesi si ritorna come produzione in Italia piuttosto che il contrario, è così? Sì, comunque l'Italia, per la posizione geografica, è una posizione che è molto interessante anche a livello di logistico, perché comunque è importante essere vicini ai mercati che serviamo. Diciamo, i piani cottura vengono venduti soprattutto del sud dell'Europa e anche nella parte ovest, per cui anche come posizione logistica è molto interessante. E su questo, visto che Fabriano mantiene e amplia anche il ruolo di principale polo produttivo per la Whirlpool, insomma, su questo sentiamo anche, sempre raggiunta la nostra Anna Marino, il vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova, che oggi ha preso parte all'inaugurazione del nuovo stabilimento della Whirlpool. Non è un salvataggio, è un rilancio, è un tenere insieme anche territori diversi, perché vorrei ricordare che è stata anche la passione, la disponibilità di questo confronto a determinare la condizione affinché uno stabilimento in una zona, come dire, desertificata come quella di Carinaro possa incominciare a vedere nel prossimo futuro già un rientro nel luogo di lavoro di tanti lavoratori. Quindi è un rilancio ed è una buona pratica da far conoscere in giro. I numeri di questo rilancio sono importanti, è necessario replicare questo modello, come si fa? Sicuramente sì, io dopo questo importante appuntamento incontrerò i lavoratori della GEP che da molti mesi vivono in una situazione di grande difficoltà, e anche a loro io voglio proporre questo metodo di lavoro, scommettere non sulla richiesta di finanziamenti a pioggia da parte delle imprese né ammortizzatori sociali all'infinito per i lavoratori, ma invece investire in innovazione e ricerca, portare le nostre produzioni a livelli qualitativi sempre più alti e incrociare il gusto dei mercati, anche di quelli più lontani, che attraverso l'acquisto delle nostre merci possono stabilizzare i nostri posti di lavoro. Non è il salvataggio di un'impresa italiana, ma di una produzione internazionale per quanto riguarda Whirlpool. Sì, sicuramente una multinazionale che aveva deciso di delocalizzare un pezzo di produzione in altri paesi e che invece è ritornata indietro da questo proposito e ha investito molte risorse. Qual è la motivazione principale? È stata data dal confronto e un rapporto anche con le istituzioni, che è stato fatto di rigore, di serietà e di confronto di merito. Ricordo ancora l'emozione che prese anche il presidente Renzi quando andammo a firmare l'accordo quadro della Whirlpool al Presidente del Consiglio. A distanza di meno di 2 anni si vedono risultati di grandissimo valore. Allora, al di là di questa buona notizia, dopo il meteo invece andiamo sul primo degli approfondimenti. Qualcuno mi scrive ridendo, beh, sei contento dell'1%. Allora, ripeto, sempre meglio 1% che 0,9 sul PIL, ma non è questo che cambia il paese nella vita quotidiana di ognuno di noi. Quello che cambia un po' invece sarà la manovra che dobbiamo dare a Bruxelles dopo la richiesta appunto di una riduzione del deficit dello 0,2, perché è sempre il deficit sul PIL, dovremmo risparmiare almeno 1 miliardo nella parte di correzione. Quindi magari adesso cercheremo di capirlo su alcune delle ipotesi ventilate, accise piuttosto che altri elementi, potrebbe essere un impatto minore. Ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Allora, 17:33 minuti. Allora, andiamo avanti con. Vedo molti messaggi, non posso rispondere a tutti. Andiamo avanti con le notizie di oggi e partiamo appunto dal 2016, che si è chiuso con un più 1% a parità di giorni da calendario. Lo dico male, ma per capirci. La vera domanda, ripeto, non è quanto meglio si viva con un PIL all'1% invece che allo 0,9, ma né, insomma, che cosa nota l'italiano nella vita di tutti i giorni. Resta il raffronto di cui parlavamo ieri con il resto dell'Europa e dell'area euro, dove c'è una media dell'1,6%, quindi noi abbiamo fatto quasi la metà. La Germania ha fatto più 1,9, la Francia più 1,2, vicina a noi, Spagna più 3,2, e più lenta dell'Italia solo la Grecia, più 0,3%. Però, guardando la buona notizia, oltre alla variazione acquisita nel 2017, e cioè se facessimo tutti i prossimi mesi a crescita zero, nel 2017 abbiamo già portato a casa uno 0,3%. Il primo ministro Gentiloni dice andiamo avanti determinati sulla riforma per crescere. Il ministro Padoan ha detto il dato è meglio del previsto, ci dà ragione. Va bene, ma il punto è che cosa cambia per l'impatto con Bruxelles. Noi abbiamo promesso, o meglio Bruxelles ci chiede 3 miliardi e 400 milioni di correzione, pari allo 0,2% del PIL. Però, visto che il PIL non fa più 0,9 ma fa 1%, aumentando il denominatore si riduce il risultato finale, se ricordo bene quanto imparato a scuola. Giro la domanda a Dino Pesola del Sole 24 Ore. Buonasera Dino. Buonasera, eccomi. Ecco, a quel punto quanto risparmieremo per motivo, diciamo, di calcolo e per quello che riguarda l'Europa rispetto ai 3 miliardi e 400 milioni stimati, chiesti dall'Europa inizialmente? Ma non si tratta di grandissime cifre, però insomma 300-400 milioni forse si potrebbero risparmiare, tanto da far ridurre l'impatto della correzione attorno ai 3 miliardi. Mm-hmm. Però questi sono conteggi che si stanno facendo in queste ore, fermo restando, almeno così dicono all'economia, che la correzione che ci chiede Bruxelles è una correzione sul cosiddetto deficit strutturale, vale a dire quel famoso parametro che Bruxelles calcola al netto delle variazioni del ciclo economico e delle una tantum. E dunque una parte prevalente di questa correzione resta, però è anche vero quello che dicevi tu in premessa, cioè se il PIL di quest'anno crescesse di quello 0,1 in più, quale effetto, come vogliamo chiamarlo, di rimbalzo del 2016, beh certo ci sarà un effetto positivo quantomeno sul deficit cosiddetto nominale, e quindi un piccolo risparmio potrebbe esserci. Io credo che questo sarà però possibile appurarlo solo all'inizio di marzo, quando l'Istat comunicherà il dato finale sul 2016, che poi è quello che conta ai fini europei. Sulla base di quella nuova stima, il governo potrebbe già aver fatto una parte della manovra e poi consegnare il resto a metà aprile, quando si presenterà il nuovo documento di economia e finanza. Secondo me questo è lo scenario, ma è molto probabile che un piccolo sconto possa essere. Ecco, resta però sullo sfondo, e lo dico a chi vuole polemizzare a tutti i costi, ma oggi insomma è San Valentino, dai, lasciamo stare le polemiche, mettiamola così, resta sullo sfondo il raffronto con il resto dell'Europa, per cui tutti i ragionamenti fatti ieri per commentare i dati della Commissione Europea non sono mutati, cioè anche nell'anno in corso, poi magari verrà rivista un po' a rialzo, noi dovremmo fare un più 0,9 più 1%, la media europea è intorno all'1,7%, sperando appunto che non intervengano fattori esterni, appunto tensioni commerciali con gli Stati Uniti e quant'altro. E che cosa ha contribuito, diciamo, i giorni lavorati sono un elemento che poi ha modificato il calendario corretto, è l'elemento che ha modificato il dato finale, ma il 2017, Dino, parte già con 1,03% acquisito. È in linea o è leggermente meglio o leggermente peggio? No, al momento è in linea. Teniamo conto che noi dobbiamo fare l'1%, anzi il governo punterebbe, o almeno puntava, prima dell'accelerarsi della crisi politica, puntava a fare anche qualcosa in più, 1,2, 1,3. Allora adesso, secondo le variazioni statistiche, noi potremmo anche essere in linea, però c'è un grande punto interrogativo su questo, perché è vero che il primo trimestre si farà lo 0,3 o forse qualcosa in più, ma poi cosa accade quando c'è una variabile politica grossa come una casa che pesa sull'economia, perché non si sa quando si va a votare, e in più bisogna dire, a parte il voto, non si sa quale sia l'orizzonte sia temporale che in termini di capacità decisionale di questo governo. Perché sì, diciamo che dalla direzione del PD non è che sia arrivato un chiarimento, anzi qui bisogna parlare anche di politica, perché chiaramente la variabile elettorale è poi una variabile significativa, oltre che la variabile Mario Draghi sui tassi, però lì Draghi ha detto che porterà avanti la sua politica almeno fino a fine del 2017, quindi per l'anno in corso non dovrebbero esserci grossi problemi, e più il tema politico, incertezza e anche, come abbiamo visto, tendenza dello spread italiano, penso che poi quello si paga nel rifinanziare il debito. E dicevo, l'orizzonte politico mi sembra tutt'altro che sul fronte del partito di governo, di maggioranza relativa al governo, mi sembra tutt'altro che chiarito. Appunto, ci si chiede in queste ore che tipo di manovra di bilancio si farà per l'anno prossimo, e anche che tipo di documento di economia e finanza, perché è tutto evidente che un governo che ha un orizzonte temporale fino a giugno non può presentare un documento di economia e finanza che vale per la manovra 2018 con un minimo, come dire, di credibilità, di attendibilità. E quindi è probabile che ad aprile ci sia un'indicazione molto di massima. Se poi questo governo durerà fino a settembre-ottobre, allora potrebbe fare una manovra, ma anche in quel caso lì poi sarebbe il nuovo governo chiamato in qualche modo a governarla nel corso dell'iter parlamentare. Quindi diciamo che questa variabile politica pesa non poco, e pesa molto sull'economia di quest'anno, e quindi qui torniamo al punto di partenza. Riusciamo a fare l'1%? Ammesso che stiamo ragionando di una cifra che, come ricordavi, è largamente al di sotto della media europea, ci sono vari punti interrogativi, che se non si fanno delle cose, ne cito una, ad esempio portare a termine tutto il percorso che questa manovra di bilancio prevede sul fronte degli investimenti pubblici e privati. Lì la macchina... Adesso se posso dare così una sintesi al tuo intervento, cioè il problema è, non è il regime dei mercati, a chi non si va più a votare, ma si figuri. Il ragionamento, lo dico rivolto a un ascoltatore che scrive al 349-238-6666, no, è forse quasi l'opposto, cioè... Il timore in questo momento è che se non si chiarisce l'orizzonte politico, voglio dire, i mercati, chiamiamoli così, gli investitori preferirebbero, a mio avviso, sapere: si vota in Italia a ottobre, si vota in Italia a febbraio 2018, si vota in Italia a scadenza naturale, perché ti regoli di conseguenza. Ma soprattutto il ragionamento di Pesola era: come si fa a imbastire una manovra finanziaria che bisognerà iniziare a studiare almeno, no? La legge di stabilità per il 2018. Se non sai quanto regge il governo, se non sai quando vai a elezioni, è inutile girarci attorno. Non è che puoi fare una legge di stabilità così, di transizione e di manutenzione, Dino. Sì, esattamente, e questo ha effetti sul discorso che facevamo, cioè si punta su un tasso di crescita più alto, sì, ma come? Con quali interventi, con quale capacità effettiva che poi queste misure... E con quale linea politica, che non è ancora una bestemmia, nel senso che giustamente un governo, a seconda del colore politico che ha e dell'elettorato che l'ha eletto, decide di fare una manovra puntando più su una cosa, più sull'altra, tipicamente nel campo fiscale, puoi puntare di più sull'IRPEF, puoi puntare di più sull'IRAP, o sulle tasse invece, diciamo, abbiamo visto le varie l'IMU, o sulle accise, o sull'IVA, cioè dipende che tipo di impostazione hai. Sappiamo che i programmi politici, nel caso di alcuni partiti, prevedono anche il rimettere in discussione l'euro, ma al di là di questo, cioè una manovra si fa chiaramente in base al colore politico di quel governo, dovrebbe essere così, oltre che rispettando diciamo i paletti messi dall'Europa, le promesse fatte all'Europa senza aumentare il deficit finché c'è questa Europa. Però se non hai, se hai un governo, diciamo, solo di transizione, rischi di fare una manovra di puro mantenimento e contenimento? Infatti è esattamente quello che stavo per dire, cioè quello che non serve in questo momento è una manutenzione ordinaria. Noi abbiamo bisogno di spingere il più possibile l'acceleratore sulla domanda interna per provare a far ripartire questa economia, almeno, voglio dire, a un tasso che sia dell'1,4-1,5%. Non stiamo parlando di... No, anche perché, Dino, la crescita anche quest'anno, da quello che vediamo, è in molta parte dovuta... È vero che nel 2015 si sono risvegliati i consumi interni un po', ma è dovuto ancora all'export soprattutto, solo che l'export ha due piccoli problemi. Non è che possiamo continuare a sperare che, a parte che non ha un tasso di sostituzione sul mancato i consumi interni, cioè non ce la fai con l'esportazione a rimpiazzare in venir meno della domanda interna dei consumi. In secondo luogo continua a crescere e prima o poi anche i mercati si saturano, cioè noi possiamo continuare a immaginare che le nostre imprese siano sempre più brave e continuano a aggredire i mercati, però non è che puoi continuare a fare più all'infinito. Terzo aspetto, l'export è molto soggetto ai fenomeni di economia di politica internazionale. Vedi Trump, vedi l'ipotesi appunto di Stati Uniti più protezionisti, insomma, per cui è una variabile che varia di anno in anno a seconda anche della politica internazionale. E certo, ma ci sono delle misure, ne cito una che è molto importante, perché nella manovra di quest'anno è previsto il cosiddetto piano Industria 4.0. Esatto. Ottima, piena di elementi, di spunti fondamentali. Però se questo percorso non si mette in moto subito, stiamo parlando di febbraio, e arriviamo fino a maggio che ancora i piani non sono partiti, ma le stesse imprese stanno un attimo in attesa, capire cosa accade nella situazione politica, andiamo a finire a ottobre e quindi si rischia di vanificare anche un aspetto, come dire, propulsivo, chiamiamolo così, potenzialmente propulsivo della manovra di quest'anno. E quindi assolutamente quello che è da evitare è l'impasse politica, cioè il fatto che questo governo stia lì a gestire gli affari correnti. No, qui bisogna fare politica economica, bisogna farla sul serio, perché sennò il 2% ce lo scordiamo. No, e quindi non mi sembra un giudizio così, lo dico agli ascoltatori che farebbero sempre il sangue, un giudizio così morbido. Cioè, se qui tu non metti in campo delle linee guida di politica economica, abbiamo detto mille volte, non è la politica economica che determina la crescita del PIL, ma lo può agevolare. Faccio un esempio sulla legge di stabilità appena varata, superammortamenti e iperammortamenti, più altri elementi di carattere fiscale. Quello lo confermi? Non lo confermi? C'è un imprenditore che deve fare dei piani di investimento alla luce anche dell'industria 4.0, dovrà sapere se per il 2018 esistono ancora gli iperammortamenti e superammortamenti, oppure vengono ridotti dal 240% in un caso e il 140% nell'altro. Cioè, non sono dettagli questi, cioè, sono tutte le condizioni di contesto che ti permettono di sapere in questo caso se vuoi cambiare un macchinario o comprarne ex novo uno oppure no. Cioè, tutto questo poi, se moltiplicato per migliaia di casi, porta alla differenza di cui sopra, cioè se l'economia farà un 0,9-0,8 o andrà un po' più oltre. Grazie a Dino, mi sembra che comunque chiarimenti non ve ne siano. Ripeto, non è che siamo ostaggio del PD, ma è chiaro che se uno dei due partiti più forti di questo paese, stando ai sondaggi, l'altro è il Movimento 5 Stelle, partito attualmente al governo, ha una, diciamo, volano gli stracci tra minoranza e maggioranza, non si capisce bene come andranno a farla conta, tutto questo blocca anche l'attività politica futura, no, questo è il dramma. si chiarissero e andiamo avanti, perché insomma non si può in questo senso restare dei mesi con questa economia modestamente in crescita, restare appesi a capire come si riorganizzerà il primo partito in questo momento dentro il governo. Grazie Dino Pesaro, andiamo sul traffico e poi il resto del programma, partiremo anche dalla borsa, ritorniamo alla borsa e poi Toshiba, Opel e chiaramente anche l'Ilva. Focus Economia. Allora, la borsa, però vorrei parlare della borsa che oggi ha chiuso bene, nel senso a Milano più 0,65%, invariata Francoforte, Parigi più 0,16%, Londra meno 0,07%, e te pareva su Londra, Nikkei meno 1,13%. Adesso arriviamo alla borsa italiana. C'è un caso però giapponese che si chiama Toshiba, ecco perché mi collego subito con Stefano Carrer, perché il caso Toshiba è un caso abbastanza singolare, in collegamento con noi da Tokyo, quindi buonanotte Stefano, giusto? Insomma, se il fuso non mi dice... Sì, buonasera a voi. Ecco, Stefano, che è successo a Toshiba? Perché il titolo poi ha preso una scopola in borsa, ha perso il 9% alla fine delle contrattazioni, ma se ho ben capito non riguarda la Toshiba che noi conosciamo, insomma, come consumatori, ma la parte nucleare della Toshiba. Sì, esattamente. Toshiba è sull'orlo del crack finanziario, ma non perché ha perso colpi sul fronte dell'elettronica di consumo, no? Conosciamo sì. Bene, no? Il Toshibino ci ha accompagnati, insomma, nella scoperta delle possibilità del personal computer. Il problema è che ha scommesso sull'energia nucleare, in particolare sulla costruzione di centrali nucleari. È stata una scommessa sbagliata, soprattutto dopo l'incidente di Fukushima, che ha rallentato la costruzione nel mondo di centrali nucleari e quindi ha annunciato una mega svalutazione da 6,3 miliardi di dollari relativa alla controllata americana nel nucleare Westinghouse, che ha portato in negativo il capitale sociale. Quindi rischia il crack, ma è una vicenda che va al di là della singola società. È un duro colpo per l'intera industria nucleare nel mondo, tant'è vero che Greenpeace ha subito commentato, un po' esultando, che il caso Toshiba dimostra che la costruzione di centrali nucleari nel mondo ormai è un business non più proponibile perché è troppo rischioso e troppo così oneroso e quindi non conveniente anche dal punto di vista strettamente economico. Ecco, scusami Stefano, però visto che Toshiba, al di là della sua componente nel nucleare, perché nel 2006 appunto acquistò la statunitense Westinghouse Electric Company, ha circa 50 miliardi di euro di fatturato e 170 mila dipendenti, appunto molto forte nell'elettronica da consumo, visto che ha perso il 30% il titolo in 3 giorni e si appresterebbe il gruppo ad annunciare perdite da aprile a dicembre, quindi in un periodo sostanzialmente di 8 mesi, pari a 5 miliardi e 700 milioni di euro, cioè più del 10% del fatturato, c'è il rischio che questo fallimento dell'investimento nel nucleare trascini con sé anche la parte sana? Sì, assolutamente, non solo perché Toshiba ha già venduto varie attività per poter restare a galla, ha appena venduto il medicale e oggi ha deciso che venderà probabilmente la maggioranza proprio della sua divisione più redditizia e più importante in questo momento, che è la divisione dei chip di memoria, i semiconduttori, i flash memory chip che vanno un po' in tutte le applicazioni elettroniche. Quindi è una situazione veramente di emergenza, si incontrerà mercoledì con i creditori ed è possibile anche che intervenga il governo giapponese per non lasciar crollare quello che in fondo rimane. Cioè che intervenga comprandosela, dando un prestito ponte, come? Sì, potrebbero studiare delle soluzioni, perché quando c'è qualcosa che è importante per il paese il governo interviene. Recentemente l'ha fatto con Japan Display, che un fondo parapubblico è intervenuto con un finanziamento di oltre 600 milioni di dollari per tenere a galla, insomma. Ecco, è possibile che questo intervenga, anche perché il Giappone, così faccio anticipo la contestazione, non essendo nell'Unione Europea, è uno Stato, diciamo, completamente sovrano e non ha il famoso tema degli aiuti di Stato, cioè lo Stato può aiutare quanto vuole, entrare come vuole anche in Toshiba. Gli aiuti di Stato sono proibiti dentro l'Unione Europea, perché se no il principio era che si sarebbe fatta concorrenza sleale tra i vari paesi dell'Unione Europea se uno Stato entrava da una mano a un gruppo, tranne alcune eccezioni. Infatti sappiamo quanto è stata lunga la trattativa per il governo italiano per il fondo salva banche da 20 miliardi. Grazie intanto a Stefano Carreri, io vado su Andrea Fontana per commentare il resto della borsa, al di là del caso Toshiba che appunto ha pesato sul Nikkei. Da noi invece continuano gli acquisti su titoli che erano stati penalizzati dopo i conti. Andrea, buonasera. Buonasera Sebastiano. Banco BPM più 4,90, Unipol più 3,60, Biper più 3,5, UBI più 3,40%. Sì, Banco BPM soprattutto perché i conti non erano stati così deludenti, ma avevano avuto una fase di debolezza. Anche qui l'attenzione è sulle vendite dei crediti deteriorati, ma si è risvegliata oggi dopo un paio di sedute molto pesanti la Popolare dell'Emilia Romagna. Qui l'interrogativo degli analisti è cosa farà con il capitale in eccesso, con la sua situazione patrimoniale importante che ha la Biper, appunto la banca modenese, porterà ad un rafforzamento della qualità, quindi coprendo degli asset, quindi coprendo in maniera migliore i crediti deteriorati potenziali, oppure andrà a una crescita, a un rafforzamento anche attraverso operazioni di acquisizione. In questo dubbio il titolo aveva ripiegato parecchio nei giorni scorsi, adesso ha un po' recuperato, oggi di oltre il 3%, bene ancora anche UBI Banca, ma in generale un po' tutto il settore bancario, e sempre bene gli assicurativi, Unipol e Unipol Sai per i conti e i dividendi annunciati che sono stati migliori delle previsioni venerdì, generali invece sempre perché è pendente la questione Intesa San Paolo e le indiscrezioni continuano ad alimentarsi e continueranno così probabilmente, dice il Financial Times, fino alla fine del mese di febbraio o forse di più quando finirà l'esame da parte del gruppo di Messina. E questo per quello che riguarda le banche. Dopo invece andremo a parlare anche del settore auto, perché c'è un approfondimento apposito, e anche i migliori e peggiori del settore. Tu già citavi appunto la parte generale Intesa, generali più 1,60%, Intesa più 1,30%, Mediobanca più 2,40%, peggior titolo Saipem meno 2,70%, ne parliamo dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, mancavano i peggiori e migliori della seduta. Devo dire che nell'S&P MIB, oltre al Saipem meno 2,70, c'è Telecom Italia meno 1,30, Mediaset meno 0,80 come Brembo. In assoluto Vita società editoriale più 29,50, Sintesi più 15, H Farm più 15, Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna più 12,30%, SME più 11,60%. Il fronte opposto vede invece Invest meno 7,70%. Percento, Ambro Mobiliare meno 5,34%, Primi sui motori meno 5,23%. Devo dire che a livello di notizie, il gruppo Ferrovie Nord Milano oggi ha confermato l'indiscrezione di stampa sul progetto di fusione con Trenord, posseduta al 50% da Ferrovie Nord Milano e al 50% da Trenitalia, e ATM, che è al 100% del Comune di Milano. E tra l'altro la nota del gruppo Ferrovie Nord, che è controllato a sua volta al 57% della Regione Lombardia, poi un 15% c'erano Ferrovie dello Stato e 3,7% il gruppo Gavio. Il titolo è andato bene come Ferrovie Nord e ha chiuso in rialzo del 9,42%. L'auto, dicevamo, forte Fiat, perché insomma, torna a esserci movimento nel mondo delle case costruttrici delle quattro ruote. Questa volta l'oggetto del contendere è di nuovo Opel. L'acquirente, è stata confermata infatti l'intenzione, è il costruttore automobilistico francese PSA, quindi Peugeot Citroën. Andrea Malan, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Balzo in borsa anche del gruppo Peugeot Citroën. Due domande molto semplici. Ricordavo che il gruppo fosse un po' in difficoltà, e quindi vorrei capire capire l'obiettivo dell'acquisizione di Opel. La seconda è abbastanza scontata: nel 2012 fu di fatto impedito alla Fiat, da parte di molte perplessità del governo tedesco, di acquistare Opel, che ricordo non è tedesca, è controllata da General Motors. Che cosa sarebbe cambiato ora? Vai Andrea. Allora, cominciamo dall'ultimo. Ti devo fare una piccola correzione, nel 2009 ormai. 2009, hai ragione. Il tentativo di Fiat di acquistare la Opel, allora ci fu una fortissima resistenza tedesca. La risposta è molto semplice, la resistenza ci sarà anche adesso. È già uscita una dichiarazione del sindacato tedesco IG Metall che protesta, definisce inaccettabile il fatto di trattare senza informare il sindacato, e il sindacato è stato subito sostenuto dalla ministra dell'economia e dell'energia socialdemocratica tedesca, che ha appunto protestato anche lei contro questa violazione delle norme sulla cogestione. Quindi diciamo che si prepara una situazione non diversa da quella del 2009. Poi magari la conclusione sarà diversa, nel senso che dipenderà da quanto offre Peugeot, o piuttosto forse da quanto offre GM a Peugeot per prendersi la Opel, nel senso che mentre Peugeot è stata protagonista, e qui rispondo alla prima domanda, di un risanamento abbastanza spettacolare negli ultimi tre anni, con l'arrivo di Carlos Tavares ai vertici, con la iniezione di fondi dallo Stato francese da un lato e dal socio cinese Dongfeng nel 2013, in pochi anni è riuscita a tornare in attivo. Nel primo semestre dell'anno scorso ha fatto un margine di oltre il 6% sulle vendite, quindi diciamo si è risanata, ha una situazione di cassa positiva, quindi sta abbastanza bene. Viceversa, Opel, che vende in Europa praticamente come il gruppo Fiat, circa 1 milione di vetture l'anno scorso, è rimasta però in rosso, ha perso circa 300 milioni, ha mancato per l'ennesima volta l'obiettivo del pareggio. Opel negli ultimi 15 anni ha perso circa 15 miliardi di dollari. GM ha tentato di risanarla per un sacco di volte. Ricordiamo appunto nel 2009, quando GM era in bancarotta, voleva venderla, poi ha cambiato idea, poi l'ha ricambiata, ha deciso di riprovarsi di nuovo. Evidentemente adesso si è di nuovo convinta che è un caso senza speranza e quindi vorrebbe venderla. I dubbi degli analisti, nonostante Peugeot sia salita in borsa, sono di quanto possa convenire a Peugeot caricarsi di questo peso, con tutti i problemi anche politici e sociali, anche qualora la resistenza tedesca potesse essere superata. In un anno di elezioni, sia in Francia che in Germania, la vedo male come gestione anche di comunicazione. Devo dire, insomma, fermo restando che poi ogni paese difende i suoi interessi, lo dico perché tu hai fatto bene a ricordare che l'Opel è costata 15 miliardi in questi anni, però la vedo difficile più sul fronte delle elezioni in Germania. Voglio dire, l'IG Metall è il potentissimo sindacato metalmeccanico tedesco, che spesso per il modello, diciamo, bavarese, renano, chiamatelo come ormai ha avuto mille evoluzioni, partecipa alla cogestione spesso dell'azienda, siede nel CDA. Ma dico, in questo momento immaginare di avere contro l'IGMetall perché vai a svendere o cedere l'Opel in una campagna elettorale in cui Schulz, se ho ben visto, però adesso non ho i dati aggiornati, è leggermente in testa sulla Merkel e quindi i socialdemocratici, e giustamente tu citavi la dichiarazione del ministro socialdemocratico, insomma non è politicamente quasi, non dico impossibile, ma molto molto ostica come strada? Diciamo che forse il fatto che la notizia sia uscita oggi con uno scoop dell'agenzia Reuters ha un po' rotto le uova nel paniere. Poi è chiaro che negoziati di questo tipo possono anche andare avanti a lungo. Peugeot può probabilmente promettere una soluzione soft alla situazione occupazionale. Ricordiamo che il mercato europeo era in crescita l'anno scorso abbastanza forte, è prevista una crescita sia pure minore quest'anno, quindi è ancora lontano dai massimi di 10 anni fa, quindi ha ancora qualche potenziale di recupero e quindi Peugeot può sperare di riassorbire una parte di queste economie con la crescita delle vendite. Devo dire che con tre marchi, cioè Opel, Peugeot e Citroën, che lottano per lo stesso, sullo stesso mercato, cioè sono marchi generalisti, non premium, che fanno vetture in concorrenza poi con Fiat, con Renault, cioè nella parte principale del mercato che è stata quella più concorrenziale in questi anni, l'impresa per Peugeot, se dovesse comprare Opel, non sarà facile. Ecco, e chiudiamo sulla parte proprio industriale, al di là delle difficoltà e delle valutazioni di carattere politico, perché sappiamo che insomma appunto tutto il mondo è paese e anche la Germania è sotto elezioni, però se ben ricordo è rimasto in vigore un accordo industriale con il progetto congiunto delle piccole SUV, no? La Opel Crossland sviluppata sulla piattaforma francese. Però diciamo, il piano industriale che cosa potrebbe prevedere? Perché al di là della posizione dei sindacati tedeschi, delle IGMetall, del governo tedesco, del fatto se sia il caso adesso di arrivare a questa operazione, poi uno viene valutato anche sul piano industriale, no? Sì, il piano industriale potrebbe, innanzitutto per Peugeot un vantaggio potrebbe essere innanzitutto di condividere gli investimenti. Peugeot è ancora molto piccola, piccola in termini relativi, fa 3 milioni di auto l'anno ed è fortemente concentrata sull'Europa. Lo rimarrebbe ancora di più con Opel, però potrebbe suddividere gli investimenti su volumi maggiori, investimenti che sappiamo nei prossimi anni saranno necessariamente elevati. Un po' il problema del diesel che va risolto o migliorando i motori o passando all'ibrido, quindi sempre quegli investimenti pesanti. Poi c'è tutto il tema dell'auto elettrica, dell'auto che si guiderà da sé prima o poi. Quindi tutti devono spendere senza una certezza del ritorno. Ed è chiaro che questa tendenza a mettersi insieme c'è per tutti, l'esigenza c'è per tutti. Quindi questo è sicuramente una. Tra l'altro ricordiamo che General Motors ha lanciato negli Stati Uniti e sta portando adesso in Europa un'auto elettrica che promette un'autonomia di 500 km. Questa potrebbe interessare a Peugeot, però lì c'è un altro problema, e cioè che i brevetti non sono di Opel ma sono di General Motors, quindi la trattativa sarà complicata e i francesi dovranno assicurarsi anche appunto di poter usufruire di questi brevetti. Cito una cosa che riguarda l'Italia come ultimo punto. Sì. Il centro di ricerca sui motori diesel di Torino, della General Motors, è un punto abbastanza importante, sono centinaia di ricercatori, il centro è della General Motors e non della Opel, quindi ovviamente siamo a un punto estremamente preliminare della trattativa, ci si chiede se appunto verrà conservato dalla GM per lavorare sui motori diesel a livello mondiale o passerà alla nuova entità. Sono tutti punti aperti, ma la strada è ancora lunga. Allora, grazie intanto a Andrea Malan del Sole 24 Ore. Allora, vedo ancora molti messaggi al 349-238-6666 sul tema di apertura, il dato rivisto dall'Istat sul PIL corretto per giovani lavorativi, crescita dell'1%. Qualcuno mi dice, beh, non è che negli anni passati, anche prima della recessione, si crescesse molto di più. È vero, abbiamo detto molte volte che l'Italia inizia ad avere un problema di produttività e di andamento del PIL più basso rispetto alla media europea, diciamo dal 99-2000. Poi uno mi dirà, ma perché è arrivato l'euro? Sì, perché l'euro ha messo tutto confrontabile e ti ha reso impossibile svalutare la vecchia lira, che era un elemento provvisorio per competere, ma poi imbarcavi inflazione e non risolvevi i problemi della mancata competitività, perché era, insomma, una specie di droga per esportare, ma, non, ma con l'ingresso, insomma, possiamo rifare tutta l'approfondimento con l'ingresso della Cina, dei BRICS, anche la svalutazione serve a poco quando hai quel mercato del lavoro. È vero, però attenzione che il raffronto in questo caso si fa anche con il resto della media europea, e va detto che noi cresciamo quasi la metà della media europea, la media europea, non stiamo dicendo la Spagna che fa il 3,2%, ma la media europea è l'1,7%, quindi siamo ampiamente sotto, basterebbe, diciamo, avvicinarsi alla media. Andiamo dopo il traffico invece sull'ultimo approfondimento, ossia da un lato a proposito di politiche industriali, l'ipotesi che gli Stati Uniti mettano dei dazi sulle importazioni di moto e scooter dall'Europa che penalizzerebbero in maniera pesante anche l'Italia e quindi Piaggio, Aprilia e Ducati, oltre che aziende come la BMW, l'austriaca KTM, come poi ci sono anche altre cose, parti meccaniche, tartufi, prosciutti, sempre sulle cose italiane, andiamo. Come ritorsione per lo stop dell'Europa alla carne statunitense trattata con ormoni. Voglio dire, giudizio tutto personale, sono due cose imparagonabili. Cioè, uno è un problema di salute, insomma, la scienza medica ti dice che la carne con gli ormoni proprio non è che faccia benissimo, e noi abbiamo un certo tipo di dieta e confrontiamo anche gli effetti della nostra dieta sulla popolazione rispetto agli effetti della dieta americana sulla popolazione. Altra cosa è parlare di componenti meccaniche come ritorsione pura. Pura, nel senso, allora, però ne parliamo dopo il traffico, perché nel frattempo dagli Stati Uniti arrivano anche le dichiarazioni di Janet Yellen, presidente della Federal Reserve, in audizione al Senato americano. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. I wanna be free. My colleagues on the FOMC and I expect the economy to continue to expand at a moderate pace. I miei colleghi al FOMC e io ci aspettiamo che l'economia continui ad espandersi a un passo moderato, con il mercato del lavoro in ulteriore miglioramento e una maggiore crescita dell'inflazione verso il 2%. Questa valutazione riflette la nostra convinzione che la politica monetaria statunitense rimane accomodante e che il passo dell'attività economica globale dovrebbe accelerare, sostenuta da politiche monetarie accomodanti adottate all'estero. Come sempre, considerevole incertezza pesa sullo scenario economico. Tra le cause di incertezza vi sono un possibile cambiamento nelle politiche di bilancio e il futuro andamento della produttività. È troppo presto per dire quali politiche saranno messe in campo e quali saranno i loro effetti. Mi auguro che i cambiamenti nella politica di bilancio saranno in linea con il consentire ai conti pubblici di seguire una traiettoria sostenibile. Will be consistent with putting US fiscal accounts on a sustainable trajectory. Mario Pratero, in collegamento con noi da New York, buonasera. Buonasera Sebastiano. Eccoci. Allora, un primo rapido commento sulla Yellen oggi appunto al congresso, la consueta audizione semestrale, poi vorrei capire parlare invece delle ritorsioni sui motocicli e gli scooter europei. La Yellen ha detto sostanzialmente: io resto fino alla fine del mandato, attenzione, abbiamo appena sentito, le politiche economiche possono influenzare anche lo scenario futuro dell'economia americana. Sì, allora è stato un intervento molto interessante, ha colto di sorpresa a un certo punto i mercati, perché la Yellen sostanzialmente ha detto che già alle prossime riunioni del Federal Open Market Committee ci potrà, quindi a marzo, ci potrà essere un aumento dei tassi interbancari, cosa che non ci si aspettava, perché tutti davano, c'era una probabilità dello 0% che questo capitasse, perché tutti pensavano che il prossimo aumento sarebbe stato a giugno. Allora, questa cosa ha creato un minimo di allarme, naturalmente, perché cosa significa? Che quindi faranno più aumenti di tassi nel corso del 2017. Dopodiché i mercati però si sono ripresi bene, per cui adesso sono tutti al rialzo, anche l'indice Dow Jones più 0,11%. E resta il fatto che la spiegazione della Yellen è molto chiara. Dice: beh, se noi ci trovassimo in ritardo sulla curva, a quel punto il rischio è quello di dover accelerare la stretta e produrre quindi una recessione. Perché? Perché, come ha detto, il tasso di inflazione si sta avvicinando ancora su quel livello del 2% che la Fed voleva raggiungere, e l'economia sta crescendo abbastanza bene, a un tasso moderato. Ecco, questo è il contesto d'insieme. Aggiunto che ci sono alcune incertezze sulla politica economica, perché se alcune delle manovre di Trump, soprattutto la manovra di riduzione delle tasse, non sarà compensata da introiti fiscali generati da una forte crescita dell'economia, lui promette il 3-4%, il rischio è che poi l'America si ritrovi con un disavanzo pesantissimo, e questo naturalmente anche preoccupa parecchio la Federal Reserve. Dunque un intervento per una volta a sorpresa, fuori dal copione, e dunque ben vengano quando ci sono. E qui veniamo invece alla parte dei rapporti Stati Uniti-Unione Europea. L'ipotesi che gli Stati Uniti, come ritorsione per il blocco da parte dell'Europa della carne trattata con ormoni, vadano a imporre dazi a importazioni di motocicli prodotti in Europa, ma anche parti meccaniche, tartufi e prosciutti. Allora, io capisco tutto, però insomma, la scelta di bloccare la carne con gli ormoni è una scelta, diciamo, anche legata alla dieta. Insomma, possiamo dire che gli ormoni fanno bene nella carne, che poi gli americani li usino e si vedano le conseguenze anche, diciamo, nel loro tipo di alimentazione, conseguenze e fisico, è cosa arcinota. Cioè, come si fa a giustificare che se tu blocchi per un motivo di salute, cioè gli ormoni non fanno bene, una carne che loro usano e riempiono di ormoni le loro mucche, ma non si facesse un giro in America, capisce cosa voglio dire? Come fai a sostenere che a quel punto io metto dei dazi sui motocicli, sul tartufo, cioè sulle parti meccaniche? Allora, vai. Sebastiano, questa è una delle cose tipiche, dei meandri del commercio, ritorsioni, countervalence, protezionismo, tariffe, controtariffe. Cosa succede? Che è così. Non ci sono dei limiti al settore. Non è che tu dici, beh, ho messo le cose sulle mucche, voi peggiorate, perché c'è una situazione inversa qui, che poi è stata risolta a un certo punto. Ma a un certo punto il prosciutto italiano crudo non poteva venire importato, perché c'era il rischio che ci fosse un qualche morbo. Cosa succede? Che purtroppo i governi usano delle scuse, tra virgolette, mediche per mascherare delle azioni di protezionismo. E dunque gli americani respingono che gli ormoni o queste carni agli ormoni siano così ricche di ormoni da creare dei danni, e quindi dicono questa è una manovra protezionistica per proteggere il mercato delle carni europee, e dunque noi faremo delle contromisure. Le contromisure devono essere per un valore equivalente e possono colpire qualunque altra cosa. Una volta, per esempio, ci fu un contenzioso, pensa, questo me lo dimenticherò mai, ci fu un contenzioso violento tra Francia e Stati Uniti, tra Europa e Stati Uniti, ma per dei prodotti francesi che erano stati agevolati negli Stati Uniti, però poi gli americani, quando volevano andare in Francia, trovavano un blocco. E gli americani che fecero? Misero una tariffa sulle importazioni della pasta italiana. E come dire, il problema è vostro, risolvetevelo voi, e quindi sarà poi l'Italia che a livello di Unione Europea agisce sulla Francia. Però non è una cosa illogica, e una cosa che nel contesto del commercio direi una prassi abbastanza affermata. Sì, oddio, importante il valore. Se c'è 100 milioni di dollari di questo, allora... E non potevano farlo sulle automobili, non so, di produzione tutta europea. No, lo dico perché a me ricorda come ritorsione molto più quella che che abbiamo visto operare dalla Russia di Putin, quando ci furono le sanzioni europee. Allora la ritorsione, ma lì di mezzo c'è una tensione vera e propria su un paese come l'Ucraina. Qui, insomma, perché ti blocchiamo la carne agli ormoni, che ripeto, non è che abbia bloccato una cosa qualunque. Tu cosa avresti fatto? Avresti fatto un altro prodotto alimentare? Sai, è difficile dire, perché comunque sia, alla fine si deve identificare un valore. Comunque, quello che voglio dirti è che non è una cosa, tra virgolette, illegale. No, era singolare, quindi, insomma, che... Per la carne agli ormoni si arrivasse ai motocicli e al tartufo, ma andassero, vabbè. Grazie anche a Mario Platero in collegamento con noi da New York, ma la mettiamo così, si tenessero la carne con gli ormoni non gliene invidiamo certo, né diciamo gli effetti che ha sulla, sul peso medio del cittadino americano. Infatti salvi moltissimi americani magri, ma insomma su questo non abbiamo dubbi, e me lo dice la comunità scientifica internazionale, non è che lo diciamo noi. Comunque, detto questo, andiamo in chiusura. Ringrazio come sempre voi in ascolto, do appuntamento domani dalle 17 in poi, auguro buona serata e vi lascio alla programmazione di Radio 24. Radio 24, libera la voglia di fare.